so fare neanche fosse un ordine, un mantra, una predica. Dai, dimentica tanto, non era amore, solo un'altra pagina da strappare. Dai, dimentica, ma non lo so come si fa. Dimmelo tu mentre sto aspettando qui davanti a casa un furgone. Fa incazzare la gente che dice dimentica. Tanto ognuno ha i suoi solari dimenticati, con tanto di ritratti impolverati. È un biglietto della ditta traslochi dell'anima. Tanto gli angeli restan lassù mentre io sto aspettando qui.